Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Ma se il portoncino, come si chiamava la porta della casa che dava quasi sul corso, non si apriva mai, se non al rintocco di uno degli anelli di ottone fissati a ciascuno dei due battenti, e che bussava non poteva essere che qualche cliente di Don Sebastiano, il portale che dava sul dietro era sempre aperto al grande soffio della campagna, perché immetteva nella corte, e di là entravano i frutti di quello che con tanta perizia il notaro aveva seminato, annunciando nella loro varietà il variare delle stagioni. Così la casa aveva due facce, una triste e una lieta, e due facce parevano avere gli abitanti, persino Don Sebastiano, che teneva a quei trionfali arrivi più che alla penna, sebbene la penna glieli procurasse. Tutto si raccoglieva in casa, tutto si lavorava in casa, e per questo c'erano intorno alla corte delle casette rustiche, ognuna delle quali prendeva il nome dai doni della terra che custodiva: la casetta dell'olio, la casetta del grano, la casetta della frutta, e in più c'era la casetta del forno, che era come un altare o una tomba etrusca, coi setacci, i crivelli, le corbule, sas canestidas, i canestri piccoli e grandi di foglie di palma appesi alle pareti. Per cuocere il pane venivano donne del vicinato, perché l'impresa era grossa e bisognava impastare, tirare la pasta in larghe sfoglie, passarle una a una alla donna che sedeva presso la bocca del forno, con le cocche del fazzoletto rialzate sulla testa, il viso illuminato nell'ombra. Questa metteva la sfoglia su una pala liscia e sottile, di quelle che fabbricavano d'inverno i pastori di Tonara, immobilizzati dalla neve, e scendevano a venderle a Nuoro di primavera, sui loro magri cavalli. Infilava la pala nel forno e la sfoglia al calore diventava, se era ben fatta, un'immensa palla che veniva passata a un'altra donna seduta con le gambe in croce davanti a un panchetto e con un coltello la ritagliava lungo i bordi e ne venivano fuori due ostie fumanti che pian piano si irrigidivano, diventavano croccanti e andavano a formare le alte pile che poi si sarebbero infilate nella credenza. Dal fondo di quali millenni fosse venuto quel pane, Dio solo lo sa. Forse lo avevano portato gli ebrei, che erano stati risospinti dall'Africa nei tempi dei tempi. Il lavoro aveva la solennità di un rito, anche perché si protraeva fino alla mattina e le ore tarde portavano il silenzio. I ragazzi sgusciavano nella porticina stretta, avvampavano al calore, si inebriavano del profumo di pane e di ceppi ardenti di lentischio, rapiti dai guizzi delle fiamme sulle pareti fumose, ma anche un poco intimiditi da quelle donne operose che erano serve. Queste vedevano con occhi festosi i figli del padrone e, come in un gioco di prestigio, in pochi secondi preparavano un pane rotondo in forma di anello che immergevano rapidamente nell'acqua, dove sfrigolava come il ferro rovente, e ne usciva lucido e terso come uno specchio, invetriato appunto, si diceva. Era un momento di gioia per loro e per i ragazzi, che si sentivano tutti uniti da quella cosa ineffabile e senza padroni che è la vita. Ma io devo frenare queste onde di ricordi che si accavallano in un assurdo disordine, come se tutta l'esistenza si fosse svolta in un solo istante. L'arrivo più atteso dal grande portale era quello dell'uva nelle lucide giornate di ottobre. La presenza dei carri che per l'occasione venivano rivestiti di stuoie di canapa si avvertiva misteriosamente nella casa fin dal loro ingresso in città. preceduti da torme di ragazzi, risalivano la strada ancora quasi campestre del giardinetto, quelle file di acace che il sindaco continentale aveva piantato. Poi irrompevano con rumore di tuono nel ciottolato, che si interrompeva solo nel tratto del corso che bisognava attraversare. Era il momento trionfale del lungo viaggio, perché il farmacista, i bottegai, i signori del caffè seguivano con lo sguardo il passo lento dei bovi e in cuor loro facevano il conto dei carri e traducevano l'uva in litri di vino, cioè facevano i conti in tasca a Don Sebastiano. Ma forse più di questo operava inconsapevolmente in quei signori sedentari minati dall'arteriosclerosi il messaggio che veniva dalla campagna, che per essere vicina e circostante non era meno ignota ed estranea. Il contadino, in piedi sulla coda del carro, compreso della sua opera, lanciava col pungolo i bovi su per l'ultima salita, ed era quello il momento nel quale il portale si apriva in una severa attesa. Entrare non era facile per quella costruzione preistorica, anche perché la corte, dopo il limitare, scendeva ripida e stretta verso la casa padronale, dove si allargava tanto quanto bastava per girare il carro e cominciare i lavori. Il contadino procedeva davanti ai buoi e li stordiva con le sue urla e le sue maledizioni. «Cieco sei, che non vedi dove metti i piedi!» E forse i grandi occhi dei buoi sono ciechi davvero. I servi e le serve seguivano col cuore sospeso l'aspra manovra. Poi, quando finalmente il giro era compiuto e i buoi staccati si accasciavano con le soghe pendenti dal dorso, prendevano il carro d'assalto e iniziavano lo scarico come in una nave ben ordinata. Era questo l'epilogo urbano della vendemmia che si svolgeva intanto nella vigna della valle o della collina. Il problema se pigiare l'uva nella campagna o trasportarla in città per la pigiatura era stato discusso a lungo fra Don Sebastiano e zio Poddansu, il suo fedele alternos, e decise per la città un disgraziatissimo bue che scivolò su un macigno e rovesciò sulla strada un fiume di mosto. Da quell'anno l'ala destra della casa fu trasformata in cantina. Vennero stesi i lunghi cavalletti di quercia che reggevano i tini e le botti, e la vita misteriosa del vino entrò a far parte della vita della famiglia. Don Sebastiano, come tutti gli uomini del suo tempo, non conosceva lo Stato, perché lo Stato era lui. Si operava a suo rischio, né si attendeva che qualcun altro gli pagasse in tutto o in parte le spese. Perciò, coi suoi soldi e non con quelle provvidenze che oggi lo Stato assicura, aveva comprato una spremitrice meccanica che poneva fine, con grande meraviglia di tutti, alla remotissima pigiatura coi piedi, così come più tardi egli avrebbe sostituito nell'aia i buoi e il ventilabro con una nuovissima macchina. Non sapeva di lavorare così alla sua distruzione. Allo stesso modo come si distruggeva quando non voleva riconoscere il suo titolo nobiliare, che pure gli proveniva, come abbiamo detto, dal lavoro dei suoi avi lontani. E forse per questa responsabilità della propria opera, che tra l'altro aveva addosso l'occhio di tutti, il suo aspetto era così severo, il suo mondo così isolato e astratto. Su uno di questi tini si posavano i rulli che il giro di un volante faceva ruotare l'uno contro l'altro con un clangore che arrivava fino alle stanze più lontane. E naturalmente chi girava il volante, fino a quando non si stancavano, erano i figli. La creazione del vino, la vinificazione, come diceva con parola colta Don Sebastiano, che l'aveva appresa dai cataloghi delle macchine agricole, rendeva la casa simile a una grande culla. Il vino non è come il grano, che quando è ammassato nel suo magazzino è una duna d'oro e ha solo bisogno di essere difeso dai diabolici punteruoli. E neppure è come l'olio, che quando è uscito dalla notturna mola e poi dai fiscoli pressati, dorme quietamente negli orci antichi quanto il mondo. Il grappolo, straziato dai rulli, si accumula col suo succo innocente e col suo graspo in fondo al tino. Sale lentamente verso il bordo e là se ne sta spargendo il suo profumo, che è ancora il profumo di un fiore o di un frutto. Ma c'è in quella massa iridata un dio nascosto, perché non passeranno molte ore ed ecco un'orlatura violacea apparirà tutto lungo il bordo. Allora la massa si solleverà come in un respiro, perderà la sua innocenza e rivelerà in un sordo gorgoglio il fuoco che la divora. Un odore panico, come quello che esala la terra dopo le prime piogge, salirà dalle viscere profonde e sarà l'odore della casa in quei giorni, della corte, delle vie tutti intorno, forse arriverà fino al cielo. Tutto avverrà di notte perché la vita e la morte sono figlie della notte e i ragazzi dormiranno. Ma non dormirà Don Sebastiano e non dormirà zio Poddanzu, che avrà preso dimora nella casa perché sanno che anche le ore contano in questo misterioso nascimento. E sarà zio Poddanzu che a un certo punto, lui solo lo sa, guarderà negli occhi Don Sebastiano e vorrà dire che il momento è venuto. Il mosto scaturisce dal tino, torbido e tiepido, come da una profonda ferita, quando zio Poddanzu toglie con mano esperta il tappo di sughero che contiene tutto quel mare. Le botti, addormentate sul cavalletto, ricevono il liquido che le farà piene, mentre la massa iridata perde il suo colore, cala verso il fondo, si riduce a nulla. Ma le botti non sono una cosa inerte come sono gli orci. Quando ricevono il mosto, sanno che si mettono in seno una cosa viva che si sentirà come in una prigione e premerà contro le doghe per schiantarle. Si cercherà uno sbocco nel cocchiume come la lava di un vulcano. Perciò le hanno corazzate di grossi cerchioni di ferro e perciò zio Poddanzu compie, ora che tutto è finito, un ultimo rito. Nel grande foro su in alto mette strani congegni di latta che da un lato pescano nel mosto, dall'altro finiscono in una bacinella che si colma d'acqua. Tutto quel vulcano si riduce a un soffio che passa per un forellino e si dissolve nell'acqua. E l'acqua si schiude in 100 piccole bolle che si gonfiano e si rompono con alterno ritmo che ha del singhiozzo e del canto. La cantina, le botti, il mosto possono ormai star soli. Ma nella notte, quando Don Sebastiano dorme, i ragazzi più piccoli scendono mezzo svestiti, entrano nel buio della cantina e rimangono delle ore ad ascoltare quel canto che li accompagnerà forse per tutta la vita. La nascita del vino si compirà quando l'ultima bolla sarà scoppiata e zio Poddanzu, tolte le bacinelle che serviranno per la futura vendemmia, sigillerà il cocchiume. Il puledro domato se ne starà silenzioso, in attesa di prendersi le sue vendette nei cervelli e nelle arterie e nei fegati dei non resi, che faranno lunghe e severe file nelle bettole che vendono il vino di Don Sebastiano, quando non attingono direttamente alla cantina con le bottiglie e i bottiglioni, perché è il vino migliore di Nuoro. Ma la vendemmia non è finita, perché Don Sebastiano, quando ha costruito la casa, ha steso un pergolato lungo tutti i meandri della corte, fino a quel maledetto oleandro dell'orticello, e dal pergolato pendono le lunghe stalagmiti dei grappoli che attendono di essere tagliati. L'uva di pergola, come appunto si dice, non ha nulla a che fare con l'uva delle vigne. Ha la bellezza gelida dell'alabastro e non ha né sapore né odore. E le stesse vespe la sdegnano perché non ha mai conosciuto il sole. Pure Don Sebastiano curava il pergolato con grande amore. Lo potava come lui sapeva fare, diradando i lunghissimi tralci posati sulle canne, perché se quell'uva non dava vino, aveva però un'altra importante funzione. Ed era che, a vendemmia finita, essa serviva per fare le parti, come si diceva, cioè per farne presente agli amici. Per la verità, Don Sebastiano non aveva amici, come a Nuoro nessuno aveva amici, ma il costume era che chi ha deve dare, anche per mostrare di avere. E non è detto che non vi fosse in questo il ricordo di una remotissima comunione agricola o pastorale. Don Sebastiano in persona, circondato dai ragazzi, montava su una scala a gradini, mettendo in ansia Donna Vincenza, tagliava i grappoli e li deponeva delicatamente nei canestri che i figli a gara gli porgevano con le braccia levate, i più piccoli arrampicandoglisi tra le gambe come potevano. La fine della vendemmia restituiva la casa alla sua solitudine. L'odore del mosto restava ancora a lungo per le scale e nell'atrio, ma era come se ciascuno riprendesse il suo posto nell'incalzare dell'inverno, che a Nuoro arriva presto e spesso è crudele. La casa sembrava posare ora su quel nuovo raccolto che le dava come una rinnovata piattaforma di ricchezza, ma nessuno si sentiva ricco. Don Sebastiano, del resto, non avrebbe permesso a nessuno, neppure a se stesso, di sentirsi ricco. Ricco è il cimitero, era il sentimento che ogni sardo recava nel fondo del cuore, ed era la risposta che dava a Don Sebastiano quando, anche per complimento, gli facevano i conti addosso. Questo istituto di povertà legava il padre ai figli e i figli tra loro e determinava la loro esistenza, perché la povertà crea intorno a sé un alone di poesia, ma stabilisce un diaframma col mondo che è per sua natura ricco. I Sanna, in fondo, i vecchi Sanna, avevano paura di vivere. Non erano come quei lanzichenecchi che salivano a Nuoro dai diseredati villaggi per impadronirsene con la carta bollata, o come quei predoni di San Pietro che andavano lentamente legittimando le loro rapine. Forse per questo Don Sebastiano non aveva mai consentito ai figli di occuparsi, come egli se ne occupava, di agricoltura. Può anche darsi che avesse una segreta gelosia della sua competenza, ma nel profondo egli diffidava della proprietà. Non amava la terra che sentiva caduca con le sue miserabili siepi, che dicono immobile, ma egli vedeva passare di mano in mano attraverso i suoi atti quando non passava per le vie ben più dolorose della candela vergine. Quest'uomo antico che aveva messo in case e campi ogni soldo che usciva dalla sua penna e avrebbe occorrendo difeso il suo con tutte le sue forze, aveva delle strane preveggenze. Temeva che in qualcuno dei suoi figli si sviluppasse il senso del proprietario a detrimento del lavoro, del guadagnarsi il pane da sé. Sapeva che tutto quello che aveva fatto, ed era orgoglioso di aver fatto, sarebbe morto con lui, seppure inconsapevolmente non lo voleva. Questo stato d'animo, nel quale c'era forse un fondo ancestrale di nomadismo, si rifletteva nella casa, che nella sua signorilità restava nuda, come una capanna, popolata soltanto dalla vite che egli vi aveva messo, e più per soffrire che per godere. Ma la campagna, negata come ricchezza, entrava nei figli come poesia, che è una ricchezza anch'essa e più pericolosa. Nei pomeriggi estivi Don Sebastiano inforcava il cavallo e scendeva alla sua isporosile, la grande impresa della sua vita, la terra che egli aveva strappato alla furia di un rigagnolo che scendeva tranquillo dal monte incombente. C'era una sorda guerra tra lui e questo rigagnolo che d'estate mostrava le sue ossa biancheggianti tra i rovi, ma d'inverno svelava la sua vera faccia di demonio, strappando i macigni dalla montagna e lanciandoli contro le muraglie che Don Sebastiano aveva eretto a protezione dell'orto, ogni volta sempre più larghe. Con immensa fatica, egli era riuscito a strappare a rivo quel poco d'acqua che viveva sottoterra, quando al sole non c'era che fuoco e morte, e per un lungo canale l'aveva riversata prima in un pozzetto al quale si attingeva per bere, ma l'acqua era molto pesante, con le coppe di sughero, poi in una vasca che alimentava gli orti quasi pensili sulle muraglie, via via digradanti fino a un antico melograno che terminava la proprietà. Nessuno coglieva i frutti che si aprivano sulla pianta con una risata. Don Sebastiano aveva ben altro che badare a quella nota di poesia in mezzo ai buoni legumi. Ogni giorno ce n'era una nuova e il mezzadro, legnoso e divorato dalla malaria, sapeva solo bagnare la terra col suo sudore. Anche lui era al mondo, perché c'era posto.